Benvenuti all'unità 8. In questa unità ascoltiamo le parti più importanti delle conversazioni fra Sara, Lorenzo e gli altri personaggi dall'arrivo di Sara a Firenze nell'unità 1 fino al ritorno all'albergo dopo la festa del vino a Greve nell'unità 7. Ma ascolti molto attentamente, perché queste conversazioni non sono esattamente quelle nelle unità dalla 1 alla 7. Perché ci sono delle differenze? Perché Sara, adesso sa molte parole ed espressioni e comincia a parlare italiano. Quindi, naturalmente, la storia è un po' diversa. In questa unità ci sono delle parole e delle espressioni nuove e le ascoltiamo fra un momento, ma altrimenti ha già sentito tutto il vocabolario. Nella storia ci sono alcune scene che sono diverse, in posti diversi e in diversi momenti della giornata. Quindi, per aiutarla, prima di ogni nuova scena c'è un titolo, per esempio. Venerdì pomeriggio, 17:30, 4 settembre. Sara arriva all'aeroporto di Firenze.